Casa Rossi, venerdì 14 giugno 2013, ora di pranzo, 33 gradi centigradi sopra lo zero. Basta, prendiamo una decisione. Secondo me potremmo andare a Trastevere a prenderci un gelato. Ma è tutta la settimana che stiamo là. E allora che facciamo? Andiamo a Monti? Ok, aspetta che chiamo la banca e ci facciamo aprire un mutuo. Aspetta un attimo, ce l'ho. Andiamo ai Palazzi Rossi di Valle Aurelia. Partitella a calcetto, aperitivino e chi ci ammazza? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Cerco l'estate sotto i palazzi rossi. Venerdì 14 giugno dalle 15 a mezzanotte. Torneo di calcetto, giocato per bambini, spettacolo di danza, bambini, il Palazzi Rossi in via di Valle Aurelia. È free e sta in strada. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo.